fossi io e nel lento divagar una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Premetto subito che questa mattina non è una trasmissione per bambini. I bambini a quest'ora stanno a scuola, quindi prevengo quelli che diranno: ah, fate questi argomenti con i bambini, potrebbero ascoltare. Ci sono allontanateli. Siamo fra adulti, ogni tanto si parla di cose che riguardano gli adulti. Questa mattina toccherò un argomento che mi è caro perché fa parte della mia attenzione, dei miei studi, della mia pubblicistica, di quello che ho pensato e riflettuto negli ultimi anni osservando la contemporaneità. Questa mattina parleremo, in termini concreti e sintetici, di cybersex. Cybersex significa, estendendo questo termine, la possibilità che esseri umani adulti e consenzienti hanno di incontrarsi, emozionarsi, corteggiarsi, a volte anche infastidirsi, e di concepire una sorta di rilettura sensuale del rapporto a due, però usando la protesi di alcune macchine di comunicazione. La pratica alle nostre latitudini ha una decina d'anni circa, in alcuni paesi come la Francia, in cui c'era il Minitel, delle forme di chat telematiche che anticipavano la rete internet un pochino più antica. E infatti in questi paesi la prima causa di adulterio, di separazione, di crisi di coppia è naturalmente data dalla cyberfrequentazione clandestina. In Italia il fenomeno era molto più sotterraneo, era molto più di nicchia, lentamente sta emergendo. È esploso alla fine con la grande scoperta degli italiani per il social networking. Facebook ha dato lo sdoganamento finale a una pratica che era un po' consumata nell'ombra, peccaminosamente, come fosse la possibilità di viversi una vita parallela in quante famiglie, in quanti uffici, in quante stanzette da studente universitario, liceale, la macchina attraverso cui si sudava il pane quotidiano o il frutto dello studio personale era anche la macchina d'evasione, di fuga, di incontro. Oggi il fatto che chiunque abbia un suo profilo, un suo account sul social network, chiunque possa mettere le foto proprie della famiglia, dell'automobile, della casa delle vacanze e chiunque possa dire frasi scherzose agli amici, ha tolto quell'ultimo velo di area clandestina alla possibilità di conoscere altre persone attraverso la rete. Voi direte: ah, è una pratica di nicchia, è una pratica riservata ad alcuni maniaci, a delle persone che non sanno gestire la propria potenzialità relazionale attraverso le vie naturali, e chi si innamora attraverso il computer, chi si emoziona attraverso il computer, chi consuma atti sessuali, seppur consumati con artigianati autonomi, ognuno a casa sua, attraverso un rapporto con il computer, fa parte di quell'umanità borderline. In parte è vero, in parte chi compulsivamente usa questa macchina, questa maniera per incontrare altre persone fa parte di una fetta di umanità che ha qualche problema, è lecito averceli, possibile averceli, nel relazionarsi apertamente con il resto del mondo, o perché fisicamente molto svantaggiato, socialmente molto svantaggiato, anagraficamente molto svantaggiato, socialmente impossibilitato ad avere altro, quindi si ritaglia con lo spazio onirico. Ma per la maggior parte delle persone che io conosco, per l'esperienza che ho, per gli studi che ho fatto, per le mie attenzioni professionali, che pratica comunque questa sorta di nuova maniera di incontrarsi, nuova poi parzialmente nuova, sono persone che sono perfettamente realizzate nella loro vita personale, sociale, sessuale, fantasiosa, che hanno questa sorta di elemento aggiuntivo, di possibilità di velocizzare, di ottimizzare il tempo, di superare gli spazi, e che permette ancora una volta all'uomo contemporaneo di avere questa illusione, che è poi illusoria fino a un certo punto di vista, perché laddove ci si emoziona si esiste, di potersi espandere oltre i propri limiti. Sì, è vero che in rete accade di tutto, dall'incontro occasionale all'incontro con l'amore. Il sistema è semplice, si parla, ci si scambiano delle foto e poi ci si incontra. Se ci si piace o si va si può andare in una cena, si può andare a letto insieme, perché no, si può fare di tutto. Si può incontrare l'avventura, si può incontrare il grande amore. Ecco, cominciamo a sentire delle testimonianze. Alcune sono persone che hanno chiamato alla segreteria di questo programma in varie epoche, visto che noi di questo argomento abbiamo fatto molte volte il filo rosso delle nostre riflessioni. Un paio di anni fa fummo accusati di essere una trasmissione fuorviante perché esplorammo in diretta assieme al nostro pubblico uno dei mondi paralleli che più era certificato all'attenzione giornalistica, quello di Second Life. Entrammo, raccontammo ogni giorno ciò che accadeva nel mondo in cui gli esseri umani si incontravano attraverso una raffigurazione teleguidata di se stessi, chiamata avatar. Si costruivano degli alter ego meravigliosi, bellissimi, con dei corpi stupendi e con delle appendici sessuali oltre ogni fantasia e ogni immaginazione, e nottetempo, di pomeriggio, di sera, si incontravano in delle meravigliose terre virtuali e immaginarie, e lì allacciavano storie d'amore meravigliose. Noi facemmo la stessa cosa, invitammo il pubblico a fare la stessa cosa, nacquero delle storie meravigliose, alter ego di me stesso che seducevano le ascoltatrici, che rimanevano sconcertate da queste capacità amatorie di qualcuno che non era assolutamente io, naturalmente, o qualcun altro che si impossessava del mio alter ego. Questo permetteva di centellinare, studiare le capacità, le potenzialità dell'essere umano, di essere oltre se stesso tanti altri se stessi, e le macchine, che per luogo comune sembrano le più grandi castratrici di fantasia dell'umanità, in realtà dimostrano di essere delle profonde stimolatrici di ciò che ormai il mondo moderno non ci permette più di provare attraverso il conoscere le emozioni, avere il tempo per vivere le emozioni. Vi racconto la mia storia. Un giorno su Netlog guardavo un po' le ragazze che c'erano in chat, guardo una ragazza e dalle foto non sembrava una bella ragazza e la contatto. Cominciamo a chattare e alla fine, dopo qualche mese che chattavamo, lei mi dice che fa la PR in una discoteca, mi dice quando vado a trovarla, quando non vado, io non potevo mai. Un giorno gli dico se di prepararmi la mia festa di compleanno, dato che era una discoteca. Mi organizza questa festa, vado in questa discoteca, la conosco, ci presentiamo tutto quanto. Da parte mia la guardo e rispetto alle foto era un po' diversa e quindi non mi piaceva più, e invece lei da parte sua rispetto alle foto mie gli piacevo di più. Il giorno dopo mi dice che comunque gli piacevo, dalle foto ero diverso. Io non gliel'ho detto perché è carineria, e insomma riesco sempre con lei altre volte perché lei stava sempre in discoteca, quindi andavo lì a trovarla e niente, adesso siamo soltanto amici. 800240024 è il numero di telefono per raccontare, se vi va, alcuni momenti della vostra seconda vita relazionale, emozionale, che passa attraverso il computer con cui lavorate ogni giorno, o se avete avuto amici, partner, figliuoli, parenti, presi e rapiti da questo mondo che, viste con l'occhio di chi non lo frequenta o non lo conosce, sembra una totale realtà. O perlomeno, se come l'ascoltatore Giuseppe, che con fare moralistico mi incolla la notizia, una delle tante notizie di fatti di cronaca nera, tuscolano, sesse coltellate nel parco, è stata una donna conosciuta in chat, ecco, una delle tante motivazioni che riempie i titoli dei giornali a fronte di delitti passionali o delitti per incauto uso della propria libertà di relazione, che è il fatto che nascano attraverso una relazione con il computer. Ma dobbiamo cominciare a pensare che non è più qualcosa di alieno, di alto rispetto al mondo che noi viviamo. Conoscere una persona attraverso una relazione telematica equivale a averla conosciuta in una balera, averla conosciuta in un bar, averla conosciuta in un autobus, averla conosciuta a una festa d'amici. È talmente profondo ormai è la frequentazione che abbiamo quotidiana con delle macchine anche di relazione. Questa nostra protesi, capace di emozionarci, capace di velocizzare e di moltiplicare la nostra possibilità di incontrare altri esseri umani, fa parte ormai del nostro quotidiano. Non è un luogo reietto e negletto in cui è soltanto alcune oscure presenze si possono sfiorare, è il luogo dove si incontra ognuno di voi e ognuno di noi. Ho iniziato con la chat per spronarmi, per tirare fuori un po' di carattere, e da lì ho cominciato a conoscere un po' di ragazze. La mattina, quando arrivo al bar, l'unica cosa che facevo, mi collegavo subito sulla chat e cominciavo a fare il messaggetto, come ancora il messaggetto carino, lo mandavo a 30-40 ragazze. Da lì poi ho cominciato proprio a livello droga, mi prendeva proprio di continuo. Ho preso 5 minuti, subito correvo in chat. Da là poi lasciavo perdere, perché comunque sia, mi è successo di tutti i colori. Ragazze che praticamente mi si presentavano con determinate foto e poi magari alla fine non erano. Addirittura una volta mi si è presentato un trans. Fortunatamente io sono uscito a vedere lui e lui mi ha visto a me. Quando proprio gli ho fatto squillare il cellulare, ho visto che era lui, mi sono dovuto andare. Chi mi faceva andare, ma che ne so chi era, io non me ne sono andato. Invece delle volte ho conosciuto dei ragazzi, comunque sia, ci ho avuto anche delle storie. La storia che è durata un paio di mesi. Certo, l'unica cosa è che praticamente una volta che diciamo entri nel mondo della chat e vedi che comunque sia rimorchi la mattina, la sera, se ci stai, più di tanto le ragazze che poi conosci non le apprezzi. Quindi in parte diciamo ti aiuta a spronarti, dall'altra parte un po' c'è bisogno di starci attento, perché comunque siete lasciando andare. Divertite, rimorchiate quanto potete, però andateci piano, perché fidatevi che è una droga. È una droga. Nella semplicità espositiva del pensiero basico di questo ragazzo che mette su YouTube il racconto, la propria esperienza di amori telematici, comunque esiste una grande verità. Lui dice: attenzione che è una droga perché l'ego di ognuno viene moltiplicato, amplificato, solleticato, meravigliosamente sollecitato dal fatto che si possa avere una plurima possibilità di incontro. Ognuno di noi in realtà nel profondo intimo viene gratificato dalla poliedricità, dalla moltiplicazione delle possibilità, delle relazioni, ci sente improvvisamente importanti, è capace di suscitare e di far fibrillare un'infinità di animo. Nella vita quotidiana succede raramente, succede in alcuni casi fortunati. Mi dice Massimiliano: quando c'è una novità comunicativa, i primi usi che si fanno sono quelli sessuali e violenti. Quando si impara una lingua nuova, la prima cosa che si apprende sono le parolacce. Le prime volte che si va in una chat, la fantasia più potente è quella di adescare o prendere parolacce qualcuno, perché credo che lo stesso sia avvenuto per Second Life. Le nuove tecnologie, è vero, quando hanno un uso sociale, un uso relazionale, passano attraverso le emozioni, si modificano e cambiano la loro destinazione d'uso primario, diventano qualcos'altro proprio perché si contaminano con le emozioni delle persone che le usano. Giuseppe, buongiorno. Giuseppe? Non la sento pochissimo. Ah, mi scusi, avevo messo via la voce. Ah no, non è possibile detenere. Ecco, mi dica, prego, buongiorno. Buongiorno. Rispetto all'argomento, diciamo, la relazione ampliata, moltiplicata e diversificata grazie alle protesi emozionali che sono poi le macchine che ogni giorno usiamo per comunicare. Sì, certo. Dunque, io forse c'è la cosa importante era riferire una mia esperienza personale. Io ho avuto la fortuna, devo dire, attraverso internet di incontrare un ragazzo, lui che mi ha cercato. Io ho 66 anni e lui ne ha 27. È nata una relazione molto bella che sta durando da 10 mesi, oggi esattamente. Quindi, mi scusi, il fatto che lei abbia 60, mi ha detto... 66, ecco, infatti volevo parlare anche di questo. Non è più vero che ormai la frequentazione e l'uso di queste macchine appartenga a una fetta generazionale di giovani smanettoni? Ormai chiunque abbia un computer ne conosce l'uso profondo. Sì, sì. Io so benissimo, perché ne ho la certificazione, osservando il mio pubblico, osservando le mie amicizie, che è una fetta preponderante anche di tranquille casalinghe, ma non perché questo sia qualcosa che vada in contrasto con l'essere tranquilla casalinga e né che l'essere tranquilla casalinga è un disvalore. Hanno una facilità immediata, come usano il ferro da stiro, come usano l'aspirapolvere, come sanno programmare una lavatrice, a mettere se stesse in gioco continuamente, quotidianamente, anche non percependolo come un'uscita irrituale dal menage quotidiano, attraverso meravigliose, mirabolanti e peripezie relazionali con il computer. E questo è accaduto anche a lei? Sì, assolutamente. Fra l'altro sono stato cercato, le dirò. Questa è una cosa anche molto importante e volevo esprimere una situazione particolare, cioè non è vero che non esistano, non possono esistere dei rapporti, fra l'altro non interessati, fra un ragazzo giovane e una persona molto grande come me, è una cosa molto più comune di quanto si pensi. Quindi però il fatto che la macchina in fondo accorcia le distanze e permette una zona di test, di training che non impegna poi socialmente, fisicamente, queste differenze di età, che poi sono molto relative, anzi rappresentano un valore in più. Lei probabilmente un'esperienza di vita, una capacità di racconto maggiore, in rete è molto più interessante che un giovane scavezzacollo tronista che magari oltre i suoi muscoli non sa far vedere altro. Assolutamente, assolutamente questo. E posso aggiungere un'altra cosa che ho verificato, diciamo, molto spesso, essendo io più attratto dai giovani e loro da me, quelli che mi sono attratti dai più grandi, è che è una cosa che posso dire in qualche modo attraverso una specie di statistica, se vogliamo, cioè che sono persone che hanno avuto un padre assente o un padre, diciamo, troppo presente ma violento, e quindi hanno bisogno di una figura paterna. Sì, questo accade, diciamo che accade anche con giovani ragazze, che, visto che grazie a Dio non è soltanto il mondo per i belli, palestrati e giovani, che piacevolmente amano intrattenersi anche con uomini maturi, proprio perché probabilmente è una figura che nella vita non hanno avuto modo di elaborare nel momento giusto. Grazie Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo rientrare nell'argomento lanciato, il cybersex, che diceva inizialmente. Secondo me, comunque, cybersex più che altro viene fatto dai maschi, in questo senso, che il vero è quello senza incontro, perché il cybersex reale è quello. Vabbè, reale, non esiste categoria. Io ho detto è una sfumatura. Da chi lo usa in maniera compulsiva e limitata, soltanto per espandere in maniera onirica se stesso, e non arriva mai al dunque, probabilmente una persona che è un po' bloccata poi nei rapporti reali e concreti. Chi lo usa come un detonatore per esplosioni che poi avvengono nel mondo reale, come il signore ci ha chiamato prima, è un sistema come un altro, invece che andare a perdere tempo. Ma in quel caso diventa comunque, chiamiamola un'agenzia. Un utility, sì. Che ti permette di conoscere. Sì, ma uno perché deve andare in balera o in discoteca o a rimorchiarne bar, esatto, o alle terme, quando può farlo a casa? Quello che volevo dire io è che la donna in generale, io penso a quello che ho capito io, difficilmente fa cybersex, come diceva inizialmente, davanti al monitor, ecco, per capirlo. Sì, diciamo che le donne, adesso poi abbiamo una persona che tecnicamente ci spiegherà meglio questo termine, le donne naturalmente per loro natura, per loro predilezione, per loro proprio essere donne, sono più portate poi a trasportare il rapporto su un piano di confronto concreto. Gli uomini, ma come accade sempre anche nella vita, anche nei corteggiamenti, sono più timorosi e tendono a una sfumata più lunga prima dell'incontro reale. Monica Fabris, buongiorno. Buongiorno. Ci senti? Scusa Monica, so che tu sei in viaggio in taxi, c'è stato un aereo che ci tiene distanti, mi dispiace, però intanto vediamo se riusciamo con te a portare in termini più concreti di numeri questo problema. Monica Fabris, oltre ad essere mia amica, è sociologa, presidente del GPF, Istituto Ricerca e Consulenza Strategica sul cambiamento sociale, i consumi, la comunicazione. Hai fatto te una ricerca molto approfondita sugli italiani e la sessualità. Alla luce dei tuoi numeri, delle tue indagini, questo tema dell'incontro virtuale, del cybersex, come lo vedi? Ma volevo partire proprio dall'ultimo intervento, dal discorso della donna, perché la donna è protagonista assoluta di questo nuovo fenomeno sociale. Nell'evoluzione della sessualità negli italiani, il dato che colpisce più di tutti è che le donne si sono ormai allineate agli uomini come comportamenti, come atteggiamenti, come gusti, e hanno rivendicato un diritto al piacere, sono passate da essere passive a sempre più attive, prendono di più l'iniziativa, ad esempio. In questo senso la rete è il luogo ideale per portare in atto questa trasformazione, perché abbassa le soglie di ingresso alla donna, che è protetta dallo schermo, come dicevi anche tu, e allo stesso tempo diminuisce le paure dell'uomo. Quindi è un luogo in cui la parità dei ruoli sessuali si sta chiaramente presentificando, e poi a livello virtuale, poi anche a livello poi come proseguimento nella vita reale. Ci sono delle differenze, perché le donne ad esempio prediligono le parole, no? Rispetto agli uomini che prediligono le immagini, quindi potremmo dire uomini più webcam, donne più chat, parole. Quindi una capacità poetica e di costruzione onirica del fantasma sensuale e amoroso, più facile per le donne, che naturalmente si sentono sollecitate dalle vecchie tecniche dell'amor cortese. Gli uomini vogliono subito vedere, andare al concreto, perché sono rozzi, materiali, naturalmente. Melog 2.0. Le 5 P per rimorchiare in internet. Partiamo dalla quinta posizione. Pazienza. Andare dritti al sodo in questi casi non paga, e su internet ancora meno. Ma come si fa a dissipare la parte più eccitante della faccenda, l'incantesimo che si crea quando tu ti è affidato all'immaginazione, con domande del tipo: ciao, alla webcam, o peggio, di che colore la tua biancheria? Alla posizione numero 4, privacy. Altro errore da evitare è incalzare la preda con una raffica di domande personali sparate a ripetizione che, anche se uno volesse, mica farebbe in tempo a rispondere. Da dove dici, come ti chiami, che lavoro fai, di che segno sei? Ma io dico, un po' di discrezione. Questi consigli li abbiamo presi pescando in internet una ragazza che è sentita in dovere di stabilire alcune regole, alcune maniere per dare un minimo di etichetta amorosa, se possibile, ai rapporti online. Mi scrive un sms un ascoltatore, mi dice: Nicoletti, quale Facebook? Ci sono siti dove sono iscritte centinaia di migliaia di coppie scambiste e singoli superdotati pronti a concedersi gratis. Io naturalmente ho dovuto selezionare una porzione di questo problema, che sono i professionisti, sono quelli che lo fanno per mestiere e che lo fanno per seconda attività, per formula risolutiva di crisi matrimoniali, sono fatti loro. Io sto parlando della normale, sporadica, fantasiosa frequentazione attraverso i mille rivoli del quotidiano. Non mi interessa chi in maniera compulsiva, costante, cocciuta, frequenti luoghi dove ci si organizza per incontri serali nei pedaggi, nei parcheggi dei caselli autostradali o nei luoghi debiti. È un altro problema, è un altro argomento. Alla posizione numero 3, personalizzazione. Dinanzi a tanta bellezza, soltanto il sospiro può aver voce. Ma che galante. Certo, chi si affida alla legge dei grandi numeri, spammando lo stesso messaggio a destra e a manca, è matematico che prima o poi qualcuno abbocchi. Ma è così triste. Alla posizione numero 2, poliedricità. Dovete essere brillanti e poliedrici, scomporvi e ricomporvi a seconda di chi vi trovate dall'altra parte dello schermo. E la prima delle 5 P per rimorchiare su internet è profilo. Mi raccomando, è la P più importante di tutte e la più difficile. Perché? Che si tratti del nick di una semplice foto o di un'intera pagina in cui vi descrivete, rappresenta la vostra vetrina. Visto che sono buona, vi permetto di sostituire questa P con quella di Photoshop. Come se non vi conoscessi. Però poi non venite a piangere da me quando arriverà, perché arriverà il momento di incontrarla dal vivo. Cita Photoshop, uno dei software più conosciuti di fotoritocco, perché naturalmente la costruzione della propria seconda identità, terza, quarta, quinta identità, richiede qualche artefazione. L'artefazione si fa al fantasma amoroso, all'immagine onirica si dà se stessi, si tacciano alcuni problemi, ci sono delle tecniche precise, esagerare molto sulla propria epica biografica, raccontare di sé gli episodi che più danno presenza virile o presenza erotica per una donna, parlare molto delle proprie condizioni interiori, farsi compatire, mostrare una profondità che non si ha, una sensibilità, una poesia, vezzeggiare. Esistono mille maniere per artefare se stessi, e naturalmente esiste anche la maniera di artefare la propria immagine. Riprendiamo con Monica Fabris, sociologa e presidente del GPF, Istituto di Ricerca. Monica, mi togli un dubbio: gran parte degli ascoltatori, anche quelli che mi scrivono attraverso Facebook, quindi frequentatori abituali della rete, tendono a confondere, non so se volontariamente o impropriamente, il termine di relazione attraverso la rete, che può anche sfociare in un rapporto erotico, e la pornografia. Molti mi dicono e mi associano come se fossero la stessa cosa i siti porno, i porno shop, lo scambismo, le forme patologiche di incontro in rete con la normale frequentazione di esseri umani che hanno solo voglia di conoscersi. Hai sentito, Monica? Sito? No. Sì, non ti senti. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Ecco, vuol sapere come mai c'è questa confusione fra pornografia e borderline con un tranquillo sistema che stiamo raccontando di relazione che usa delle protesi come appunto il computer. Ma partiamo proprio dalla pornografia. Io non sarei completamente d'accordo nel ritenerla un fenomeno patologico. Quello che noi rileviamo... No, dicevo, scusami, patologico, non volevo dire io patologico. Il loro punto di vista è, dice, vedi, è come quella cosa schifosa che vediamo che è la pornografia. Sì. Io sono per la libera fruizione di quello che ognuno reputa consono alla propria felicità, quindi faccia quello che vuole, non so, non è quello... Infatti, quello che ci interessa dal punto di vista sociale, che ci terrei a sottolineare per prima cosa, è lo sdoganamento della pornografia. Cioè, noi abbiamo il 50% della popolazione italiana, intesa dai 17 ai 65 anni, che ritiene la pornografia una parte normale della propria quotidiana sessualità. Questo dato ci deve far riflettere su come ciò che noi chiamavamo malattia, perversione fino a poco tempo fa, in realtà rientra in un processo di liberazione sessuale in cui anche la fruizione di immagini, il voyeurismo, l'esibizionismo e la pornografia sono integrate nella vita sessuale. Che non a caso, vedi Monica, è calato la frequentazione di siti porno a favore della frequentazione di siti di relazione. Facebook in Italia ha più successo che YouPorn, ti faccio un esempio, ecco. Sì, per quanto non sono due fenomeni in antitesi, perché un altro aspetto che ci interessa è come la pornografia non è più una cosa da vedere, ma anche da fare. Cioè, all'interno del mercato pornografico crescono gli attivi rispetto a chi passivamente ricerca immagini e visioni. Quindi la pornografia entra a far parte della sessualità, anche della sessualità di coppia e dell'accettazione sociale. Altra cosa sono i rapporti, le relazioni virtuali, che a volte non hanno neanche delle marcature sessuali accese e sono più da ricondurre al generale bisogno di moltiplicare le relazioni fluide, facili per certi versi, ad altissimo potenziale emotivo in cui si può entrare ed uscire. Abbassano anche i sensi di colpa, molti mi dicono si può essere adulteri senza sentirsi in colpa. Sì, la maggior parte delle relazioni online sono di persone sposate, quindi questo ci dice come il matrimonio evidentemente non riesce a contenere, ma probabilmente non è mai riuscito a contenere l'intera sfera della sentimentale della persona. E quindi viene integrato con queste pratiche relazionali che hanno una gradazione dalla più alto al minimo coinvolgimento, ma comunque hanno la caratteristica di poter entrare e uscire senza problemi, senza vincoli. Ecco Monica, sentiamo un attimo Umberto, ci chiama in questo momento, forse può dire qualcosa a complemento quello che stai dicendo te. Umberto, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. La mia esperienza è l'unica cosa che posso dire. Secondo me tutti questi strumenti possono essere... Vigliacco, se telefonasse una donna questa mattina, scusa, vai avanti. Possono essere utili sicuramente a livello relazione, ma non bisogna abusarne. Nel mio caso personale... Cosa ti è successo? Prima SMS e poi computer con varie chat hanno portato alla distruzione della vita familiare, vita di coppia, dopo 23 anni. Ma eri tu, il compulsivo? La mia ex moglie. Cioè tu vedi tua moglie improvvisamente appassionata alla ricerca online di strumenti di lavoro, alla fine hai capito non era solo quello. Esatto, no. Purtroppo l'ho scoperto, mi spese. E soprattutto, essendo comunque... Ecco, ma come entra nelle pieghe di una quotidianità familiare? Tutti lo sappiamo, ma raccontarlo fa sempre bene, questa tipica uscita dal mondo che contemporaneamente deve permettere una presenza reale, non so, si sta in casa e sta davanti al computer. Io mi accorgo sempre, anch'io quando sto davanti al computer, molte volte ho amici o amiche che mi cercano, vedo occhi strani alle mie spalle, vedo casuali passaggi proprio dove c'ho io il monitor acceso. Capisco che non sempre fa piacere vedere una persona che si astrae in un momento in cui la famiglia richiederebbe la tua attenzione. A te invece cosa accadeva? Praticamente le stesse cose, gli SMS sono stati scoperti per caso. Per quanto riguarda il computer, facevo buon viso, cattivo gioco, ma alla fine è stato più un peggioramento. Ma aveva una persona fissa tua moglie o era un gioco che la coinvolgeva proprio perché era divisa in mille rivoli? No, mille no, però più di una persona fissa. Ah, quindi se n'è andata con una di queste? Sì, probabilmente c'era qualche problema di base a livello familiare ed è stato utilizzato lo strumento. Vabbè, questi sono i momenti in cui poi va oltre quella linea di controllo, per cui diventa un gioco, un'emozione o altro. Quando diventa qualcosa di serio è chiaro che poi alla fine si fanno delle scelte. Umberto. Paolo, scusate, Paolo, Umberto ha parlato, Paolo. Sì, ciao, buongiorno Gianluca. Io intervengo proprio dopo Umberto perché vengo da una storia molto similare alla sua, di una fine di un matrimonio di 15 anni, proprio grosso modo nello stesso maniera di Umberto, al quale approfitto mandare un affettuoso saluto, se permetti, di solidarietà, se mi è concesso. Ma cioè, quello che voglio cioè anche dire... te è scappata la moglie attraverso la, sì, la connessione internet? Sì, praticamente, per farla breve, sì. Poi ci sono state mille sfaccettature, ma il seme della discordia è stato quello. Io voglio dire che secondo me siamo ancora in una generazione, almeno la mia o quella di Umberto, non lo so quanti anni ha lui, io ne ho 45, quindi quelli che hanno comunque visto gli albori di internet, delle connessioni, delle chat, eccetera, e quindi probabilmente abbiamo peccato anche di una certa immaturità, di un'inesperienza o comunque di essere fagocitati da questo mezzo. Una cosa, poi ti lascio perché mi sollecitano la linea per le informazioni al traffico. Secondo te, se non ci fosse stato internet, prima o poi non sarebbe accaduto lo stesso, penso, in ufficio, sì, in balera, sì, non so? Penso assolutamente di sì, Gianluca. Voglio mettere anche me stesso con le mie responsabilità. Io ti voglio dire che questo mezzo probabilmente ha accelerato in maniera esponenziale quelli che erano ritmi anche delle conoscenze che quando succedeva a noi adolescenti potevano essere gli incontri il sabato sera in balera o in discoteca, che però potevano coltivarsi mesi perché ti vedevi di sabato in sabato, non so se ricordi anche tu. Ricordo, sì, ricordo perfettamente. Paolo, devo lasciarti perché mi urgere la linea. Consideriamo 800 24 00 24 che tutto si accelera nella nostra epoca, tutto si sovrappone e noi dobbiamo essere ubiqui e pronti ad affrontare le sfide del nostro tempo. Melog 2.0. Ciao, sono Silvia, ho 28 anni. Io conoscevo un ragazzo con il quale avevo una storia, non d'amore ma comunque una storia. Una sera chattando su un sito ho cominciato a parlare con una persona che aveva un nick diverso da lui. La chiacchierata è durata circa 2 ore, dopodiché alla fine l'ho pregato di dichiararsi che in realtà era la persona che conoscevo io e lui insisteva a dire che non era. Alla fine della chiacchierata gli ho chiesto una foto e lui mi ha detto sì, io ti mando la mia foto, però siccome secondo me sei una ragazza molto interessante voglio anche la tua. In realtà era vero, non era lui, era un'altra persona molto più grande della persona che conoscevo io. E da lì è cominciata una storia d'amore bellissima, durata un anno, con un po' di complicazioni, in quanto solo purtroppo dopo qualche mese ho scoperto che lui in realtà era già impegnato. Questa è un'altra delle tante storie che abbiamo pescato in rete. Come vedete, le protagoniste diventano le donne. Per chi mi scrive in questo momento dicendo ma mi sembra un discorso trito e ritrito, dico no, non è trito e ritrito, preoccupandomi da anni, dico sta emergendo un dato formidabile, importante, l'autonomia femminile che riconquista silenziosamente, senza che nessuno se ne accorga, il suo spazio attraverso l'uso sapiente della protesi emozionale. Avevo chiamato a raccolta le donne, infatti hanno risposto, abbiamo sempre al telefono Monica Fabris con la quale poi daremo le conclusioni. Stefania, buongiorno. Ciao. Eccomi qua. Beh, io in internet ho avuto un po' di frequentazione di chat, di siti molto conosciuti, pubblicizzati, niente di strampalato. E ho dovuto prendere un po' le misure all'inizio, perché anche lo strumento va conosciuto. Poi ci prendevi troppo gusto. Che cosa si vuole, eh? No, diciamo, ci avevi preso un po' troppo la mano, capita? No, alla fine. No, assolutamente. Io avevo una storia da cui volevo uscire, non avevo tantissimo tempo per frequentare i posti, i luoghi di incontro dove si può conoscere qualcheduno. Non sono una ragazzina, quindi non c'è più tanta occasione di socializzare, non è più così immediato e così facile socializzare. Quindi ho iniziato a frequentare internet, le varie chat, dopo aver capito un po' i meccanismi della gente che circola e frequenta queste chat, lo prendeva molto tranquillamente, cioè l'importante è non farsi prendere la mano. Quindi hai ritrovato una possibilità di avere amori, relazioni, amicizie? No, ho trovato proprio un compagno, abbiamo una bambina, cioè l'importante è usare lo strumento come uno strumento. Ma sei d'accordo con quello che ho detto in conclusione nella parte precedente? Oggi l'epoca in cui viviamo ci impone, innanzitutto non possiamo più permetterci di essere soltanto e unicamente in un posto con la mente e con il corpo, quindi dobbiamo essere, come si dice, multitask. Mentre io sto qui con te, sto chattando con gli amici su Facebook, guardo il motor con le telefonate, tengo d'occhio l'orologio, ho lo sguardo fisso su Fabrizio Intonti e Paolo Corleone dall'altra parte del vetro, insomma devo fare molte cose. Certo, anche la nostra attività relazionale non può essere limitata soltanto a una cosa per volta. Beh, le relazioni sono di varia natura, dipende sempre da che cosa vuole una persona. Ci sono, nella vita di una persona si può avere una relazione di tipo esclusivo e poi tante altre relazioni che arricchiscono la vita senza interferire con quella diciamo sentimentale, che è la relazione stabile, che può essere un matrimonio. Diciamo che nella più innocua delle maniere, innocue dico che non mette a repentaglio nulla che già esista, corrisponde a una passeggiata per il corso cittadino, a un giro al bar, a un incontro con degli amici. Non ci si ha più tempo di uscire di casa per incontrare persone, in una variegata possibilità di relazione, dall'amicizia allo scambio culturale, a raccontarsi storie personali, all'innamorarsi, al corteggiarsi, non escludo nulla. Non c'è più il tempo fisico e lo spazio concreto per fare queste cose, quindi il tempo ci si ritaglia nelle dimensioni parallele. Francesca. Ciao. Sì, sì, ti ascolto con allora, attenzione. Allora, io ho 65 anni, sono vedova. E, diciamo, per colmare un po' dei vuoti che ho nella mia vita, ho cominciato a chattare via SMS tramite un numero preso dal televideo. Alla fine... Beh, hai scelto la maniera meno economica, scusa te lo dico. Io non ho il computer. Sì, ma con quello che spendi un mese col sistema di SMS che hai visto su televideo e ti ci compri un bel computer, oggi con 300 euro c'hai una macchina meravigliosa a casa. Insomma, io in quel momento... Ma la sai usare la lavatrice? Ma dai, senti... No, per me è una macchina impossibile da capire, come il ferro da stiro, come l'aspirapolvere... No, io so usare tutto, ma il computer ancora non l'ho... Ma è molto più semplice, è un blocco mentale, fidati. La donna ha una capacità... che magari imparerò. Imparerei per forza, perché... di quei problemi, che era l'ultimo dei miei problemi. Va bene, dai. Comunque, ho cominciato con questi SMS a metà dicembre... avevo deciso di non rispondere più, invece è capitato uno che ha cominciato mandando poi dopo qualche telefonata. Insomma, vi siete messi insieme? Eh? Vi siete messi insieme? No, non ci siamo messi insieme, ci siamo incontrati, è successo quello che è successo, ma io non me ne pento assolutamente. Vabbè, messi insieme, anche se uno ci si mette insieme per una notte, sempre stare insieme comunque. Ecco, vabbè, siamo stati assieme. Vabbè, l'hai fatto bene. No, ho fatto bene non tanto, perché questo tizio, diciamo, nei suoi precedenti SMS, telefonate, era in un modo. Dopo è diventato un'altra persona, cioè il tizio... Una volta capitava anche con i mariti che dopo sposati cambiavano. È chiaro che una persona nella fase del corteggiamento è diverso da quello che è dopo la conquista. Questo fa parte della vita, ma questo non deve scoraggiarti. Telefonico. Vabbè, continuerai o smetterai? No, l'ho stroncato. Cioè, con lui sì, ma con altri... No, basta, perché non è nel... Ci hai messo una pietra sopra, va bene. Grazie Francesca. Monica, concludiamo l'ultimo minuto. Hai sentito, in fondo, quello che tu hai rilevato con il tuo istituto in realtà si è concretizzato. Le donne sono le protagoniste di questo sistema. Sì, lo sono. E la rete è diventata un'ottima palestra di conoscenza tra uomini e donne. Hai notato anche l'età? Hai notato anche l'età? Assolutamente. Persone di 65 anni. Infatti c'è un tema di genere, ma c'è anche un tema di generazione, cioè e quindi di contaminazione generazionale, sessuale, e quindi è una grande palestra sociale che sta producendo poi delle modalità nuove, dei comportamenti inediti, sta producendo anche delle patologie, ma ci tenevo a sottolineare che il tema della dipendenza non è solo proprio della rete. Noi siamo in un'epoca in cui le patologie della dipendenza colpiscono un italiano su 5, quindi naturalmente anche la rete rientra in questi fenomeni, si può usare in modo equilibrato e si può usare anche invece caderne vittima in un uso compulsivo. Certo, noi abbiamo parlato di dipendenza da shopping, che sembra la più incitata e la più benedetta delle attività umane. Grazie Monica Fabris, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.